GR24, il sole 24 ore. Siria, 200.000 persone in fuga da Aleppo. Yemen, carabiniere rapito, terzi dice tutelare l'incolumità. Buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchessi, dalla redazione di Radio 24. In primo piano le Olimpiadi di Londra. Federica Pellegrini si qualifica con il primo tempo per la semifinale dei 200 stile dopo la delusione di ieri nei 400. Intanto c'è un mistero sul braciere olimpico, il simbolo dei giochi, in diretta Dario Ricci. Sì, buongiorno da Londra. Sì, mistero rispetto al braciere olimpico, perché per qualche ora stanotte il braciere è stato spento, lo ricordate tutto, nella sua forma di 204 petali che simboleggiano le nazioni che partecipano a questa Olimpiade. Bene, il braciere, ma tutto era previsto dall'organizzazione, è stato spento, il fuoco però conservato acceso in una lanterna per poterlo spostare, visto che, come ricordate bene, era collocato al centro dello stadio olimpico e fra poco inizieranno le gare d'atletica. Fuoco però conservato, e ora l'unico mistero è dove verrà riposizionato all'interno dello stadio il braciere stesso, che comunque è stato riacceso. Speriamo intanto che la fiamma e la luce olimpica ben indirizzino la mira di Niccolò Campriani. L'azzurro ha stabilito nelle qualificazioni la carabina dei 10 metri, il nuovo record olimpico con 599 punti su 600, e fra pochissimo, fra meno di un quarto d'ora, è di nuovo in pedana per l'oro. Dicevamo di Federica Pellegrini, dopo il flop di ieri, il riscatto 1:57.16, primo tempo nelle qualificazioni dei 200 stile libero, di cui è campionessa in carica. Super Fede arriva ribadito però l'intenzione al termine dell'Olimpiade di prendere un anno soft, di staccare un po' con il nuoto. Staremo a vedere. Intanto però c'è da onorare ancora questa Olimpiade, facendo bene in quella che è la sua gara. A te la linea, Daniele. Grazie a Dario Ricci. Sentiamo proprio su Federica Pellegrini il commento del nostro Dario Ceccarelli. Un buco nell'acqua, la stella si è spenta. Quando i grandi cadono fanno più rumore degli altri, è una legge della vita e dello sport, e quindi non deve stupire che la pesante sconfitta di Federica Pellegrini nei 400 faccia più parlare dei nuovi successi di atleti meno conosciuti. Federica è speciale, non a caso la chiamiamo la divina, è una donna libera e impertinente, ama le provocazioni, stare sui giornali, in TV, in mezzo al gossip. Più calciatrice che nuotatrice, cambia gli allenatori come cambia le scarpe, di cui ha una passione sfrenata. Insomma, è molto amata e quindi per la stessa ragione sta anche molto sulle scatole. Ma vai a trovarne un'altra così, da 10 anni sull'onda, con un oro e un argento alle Olimpiadi e 4 medaglie mondiali. Abbiamo troppo fretta di bruciare i nostri idoli, perfino se hanno solo 23 anni. Andiamoci piano, anche perché a volte risorgono. Dario Ceccarelli, Radio 24, il sole 24 ore. Inizia oggi una settimana chiave per la salvezza dell'euro, per il futuro dell'eurozona, per le economie mondiali. Domani Mario Monti sarà a Parigi per poi volare in Finlandia e infine a Madrid. Tour tedesco anche per il segretario del tesoro statunitense Geithner, che prima vedrà il suo omologo a Berlino, poi andrà a Francoforte dove incontrerà il presidente della BCE Draghi e quello della Bundesbank Weidmann. E ora colleghiamoci con Deborah Rosciani per l'andamento dei mercati finanziari. Come sta andando? Sta andando piuttosto bene, l'avvio della settimana è decisamente incoraggiante. Milano guadagna oltre 2 punti, un po' più sottotono le altre piazze europee, tuttavia positive oltre 0,5 punto percentuale di guadagno a Parigi, a Francoforte e Londra. Una giornata positiva perché il mercato, oltre a tutti gli appuntamenti che avete indicato, attende soprattutto la riunione giovedì della Banca Centrale Europea, nel corso della quale Mario Draghi dovrà alzare il velo sulle iniziative che intende prendere per rassicurare l'Europa, come aveva già fatto settimana scorsa quando aveva detto prenderemo tutte le iniziative necessarie per affrontare la crisi. Quindi si attendono nuove iniziative di stimolo monetario, probabilmente programmi di acquisto di titoli di Stato sul mercato o primario o secondario, appunto per contenere gli spread. In ogni caso, queste indicazioni, oltre a fare bene al mercato azionario, stamattina hanno fatto molto bene anche a quello obbligazionario. C'è stata l'attesa asta di BTP italiani, il Tesoro ha venduto quasi 5 miliardi e mezzo di euro di titoli a scadenza 5 e 10 anni, e i rendimenti sono scivolati, perché per quello che riguarda il titolo a 10 anni il tasso che è stato riconosciuto al mercato è stato del 5,96% contro il 6,19% di fine giugno. Per quello che riguarda il titolo a 5 anni il tasso chiesto dal mercato è stato del 5,29% contro il 5,84% dell'asta precedente. Lo spread fra BTP e Bund è a 462 punti base, ha toccato anche i 446 questa mattina. A Piazza Affari volano le banche e per ora è tutto. Grazie Deborah Rosciani. Cala a luglio la produzione industriale, stando ai dati del Centro Studi Confindustria. Nel mese di luglio c'è stata una contrazione dello 0,4% su giugno, quando è stato stimato un calo dell'1,4% su maggio. La produzione media giornaliera è diminuita dell'8% annuo contro l'8,3% di giugno. E ora vediamo lo spending review in diretta a Vincenzo Miglietta. Sì, buongiorno. Notizia di poco fa: i sindacati della pubblica amministrazione hanno confermato lo sciopero per il 28 settembre. Ad aderire sono CGIL e UIL, non la CISL. Quanto ai lavori parlamentari, il provvedimento di razionalizzazione della spesa pubblica è arrivato questa mattina in aula al Senato. Il governo, come ha confermato il sottosegretario all'economia Polillo, punta a chiudere il tutto entro oggi. Di qui la richiesta breve della fiducia su un maxiemendamento che riscrive di fatto tutta la spending review con le recenti modifiche. Nel maxiemendamento sarà incluso anche il decreto per le dismissioni. Il provvedimento nel suo insieme passerà poi già domani alla Camera per la seconda lettura, che salvo imprevisti dovrebbe essere quella definitiva. Continua intanto la polemica sulla stretta sui cosiddetti farmaci griffati. La norma prevede, lo ricordiamo, l'obbligo per i medici di indicare il solo principio generico. Critiche da Confindustria, che ricorda il settore dà lavoro a 65.000 persone e ne avrebbe un contraccolpo. Anche i medici protestano perché vedono leso il proprio ruolo prescrittivo. Infine scontro sulla possibilità che gli insegnanti in esubero e inabili ad altri ruoli possano andare in pensione con i criteri pre-riforma Fornero, se hanno già maturato i requisiti entro la fine di agosto. E da Roma è tutto. La Francia, che ad agosto assumerà la presidenza del Consiglio di sicurezza dell'ONU, chiederà una riunione d'emergenza sulla Siria a livello di ministri degli esteri, perché la situazione in Siria si sta facendo di giorno in giorno sempre più drammatica e continua l'assedio della città di Aleppo. Le notizie da Aleppo sono difficilmente verificabili. Gli insorti che combattono il regime di Assad dicono d'aver aperto un corridoio tra Siria e Turchia e di controllare un intero quartiere. Il regime dice alla televisione ufficiale di aver ripreso invece il controllo totale di quel quartiere. La guerra di Aleppo costa in ogni caso ogni giorno la vita a tantissime persone innocenti. Ieri 67 tra civili e ribelli. Un prezzo altissimo. Il capo del Consiglio militare dei ribelli ad Aleppo ha chiesto all'Occidente di dichiarare una zona di esclusione aerea sul nord della Siria e ha accusato il regime di preparare un massacro. Secondo la responsabile delle operazioni umanitarie dell'ONU, Valérie Amos, circa 200.000 persone sono fuggite dalla città nel corso degli ultimi due giorni di scontri. Questa notte una fila di centinaia di persone ha raggiunto al buio il primo campo profughi per siriani aperto dalla Giordania, al confine tra i due stati, nei pressi della città di Mafraq. Il campo ha 2.000 tende, ma sarà ampliato per accogliere più di 100.000 siriani. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La Farnesina lavora in questione per liberare il carabiniere sequestrato nello Yemen. Alessandro Spadotto, 29 anni, di San Vito al Tagliamento in provincia di Pordenone, in forza al 13° battaglione di Gorizia, e addetto alla sicurezza della nostra ambasciata, era appena uscito da un negozio a 200 metri dalla sede diplomatica in Adda Street, nel quartiere internazionale di Sana'a. Un gruppo di uomini armati lo ha bloccato e caricato su un'auto. Pochi i particolari che filtrano su quanto accaduto. La Farnesina mantiene il riserbo. L'ipotesi più accreditata è che a sequestrare il nostro connazionale sia stato un gruppo di criminali che, come in decine di altri casi, punti ad un rapimento rapido e a un altrettanto rapido guadagno. Ma non si esclude l'azione di un gruppo di terroristi vicini ad Al-Qaeda, molto presente nello Yemen. Il ministro degli esteri Terzi ha già sentito il suo omologo yemenita, che gli ha assicurato la massima collaborazione. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora una notizia appena uscita: è stato depositato poco fa alla Corte Costituzionale il ricorso per conflitto di attribuzione della Presidenza della Repubblica contro la Procura di Palermo. stiamo parlando delle decisioni che ha assunto sulle intercettazioni di conversazioni telefoniche del capo dello Stato, Giorgio Napolitano. La notizia è venuta fuori dall'Avvocatura dello Stato. Ilva inizia la settimana più calda, dalla Chiesa ai sindacati fino alle associazioni. Parte in queste ore, in questi giorni, la grande mobilitazione di solidarietà. La tregua apparente decisa dai lavoratori e dai sindacati per le manifestazioni legate al sequestro degli impianti dell'area a caldo del siderurgico potrebbe rompersi anche oggi. A Taranto il Consiglio Comunale ha all'ordine del giorno anche la discussione sulla vicenda Ilva. E questa mattina Gigi Donelli ha intervistato il sindaco di Taranto, Ipazio Stefano. La magistratura ha fatto la diagnosi e noi non ci dobbiamo prendere col medico che fa la diagnosi, dobbiamo prendercela con chi ha provocato la malattia. E quindi, voglio dire, adesso bisogna trovare la cura. Non è soltanto la siderurgia, abbiamo anche l'ENI, abbiamo anche Cementer, abbiamo avuto in passato i cantieri navali con l'uso dell'amianto. C'era bisogno che la diagnosi la facesse la procura? Queste cose importanti, se nessuno interviene, c'è pur bisogno che un'istituzione, certo, dia una risposta chiara, che intervenga. Ma adesso io dico, mettiamoci alle spalle tutte queste che possono essere le differenze e le diversità di opinioni. Guardiamo in maniera concreta alla possibilità che oggi c'è, grazie anche alla ricerca scientifica, di poter controllare gli inquinanti, alle ricerche metodologiche per poter ridurre la quantità di inquinanti. Quindi il governo ha dato il primo segnale, deve continuare. E poi noi abbiamo detto un'altra cosa, perché i problemi di questa città non sono solo i problemi della salute e dell'ambiente, ma abbiamo infatti chiesto al governo di affrontare il problema Taranto, i problemi sociali. Dice, ma tutto il mezzogiorno è in queste condizioni? No, Taranto è in una situazione particolare di sofferenza. Vediamo la cronaca. Un dipendente dell'ufficio postale di via Vittorio Veneto di Torre del Greco, in provincia di Napoli, ha sparato 3 colpi di pistola contro la direttrice della struttura e poi è fuggito. La donna, raggiunta da 3 proiettili, è stata centrata alla gola, alla mandibola e di striscio al petto. Ora è ricoverata all'ospedale Maresca, dove è stata sottoposta ad intervento chirurgico. Carabinieri e polizia sono sulle tracce in questi minuti dell'uomo. Il ministro della Salute Renato Balduzzi invia agli ispettori il policlinico Federici di Napoli, dove hanno accertato eventuali difetti assistenziali nelle cure somministrate al 19enne Luca De Carlo, ricoverato presso il presidio universitario a causa di una nevrite, poi morto per cause ancora da accertare. In chiusura, Giampaolo Musumeci anticipa a noi i temi della giornata del suo programma. Buongiorno, buongiorno Daniele, buongiorno agli ascoltatori. Beh, partiamo da Londra, dove sono in pieno svolgimento i giochi olimpici, e ci spostiamo di pochi chilometri. Andiamo dall'altra parte della Manica, a Calais, dove si affollano turisti per andare a seguire le Olimpiadi, e vi sono anche migranti, centinaia di migranti afghani, pakistani, nepalesi, anche albanesi, che tentano di raggiungere un Regno Unito sempre più blindato. Sarà un po' il destro per tracciare le nuove rotte dell'immigrazione attraverso l'Europa. Questo è lo stato dell'Italia e del mondo secondo Radio 24 alle 13:13:08. Le prossime notizie alle ore 14. GR24, il Sole 24 Ore. Direttore Fabio Tamburini.